Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Siamo abituati a pensare allo smartphone e un po' a tutte le applicazioni in mobilità dell'internet come qualcosa che, se insomma ci riferiamo all'ambito lavorativo, appartiene soprattutto al mondo dei colletti bianchi, dei professionisti, dei dirigenti. Invece no, questi strumenti stanno aprendo nuove possibilità molto concrete per rendere più efficiente il lavoro di tutti coloro che in qualche misura operano sul territorio. C'è un termine inglese per definire questo nuovo, anche se non nuovissimo, orizzonte, ce lo fa conoscere Federico Pedrocchi. Sentiamo. Parto subito da una definizione che, come sapete, nelle tecnologie è ormai inevitabilmente inglese. La definizione è Workforce Automation. Per sciogliere questa definizione ricorro a Sabrina Baggioni. Buonasera Baggioni. Buonasera a lei e a tutti. Direttore Marketing Corporate di Vodafone Italia. Parliamo di questo tema perché all'appuntamento di SMAO Bari, nella sezione Smart City, quello che si terrà il 6 e 7, si parlerà appunto di questo tema. Workforce Automation, Baggioni. Allora, proviamo a vedere magari qualche esempio, ma insomma in generale mi sembra che è un sistema per ottimizzare cose che oggi si fanno in un modo un po' tutto separato uno dall'altro. Qui si riuscirebbe ad avere un'integrazione, ma ci faccio un esempio. Faccio più di uno e tutti sono legati perché è dove oggi abbiamo identificato nel mercato la maggioranza del possibile impatto positivo in termini di tempi e costi, quando il personale dipendente è in mobilità e sempre di più utilizza strumenti mobili, quindi smartphone, tablet indossabili, come diciamo noi, quindi con formati che possono essere infilati in tute da lavoro o giubbotti da lavoro. Certo. Comincia a lavorare con questi strumenti. Quindi gli esempi classici riguardano personale in territorio per l'esecuzione di lavori. Tramite questi nuovi strumenti si può automatizzare tutta la gestione dei rapporti sulle attività svolte e i rapporti di chiusura lavoro, ad esempio tracciare manutentori sul territorio le attività effettuate, il tempo impiegato, i materiali lasciati o utilizzati, sostituiti, eventuali anomalie per poi richiedere ulteriori interventi, fare fotografia all'intervento effettuato, georeferenziato, quindi con anche qualità e informazioni superiori rispetto a quelle che possono essere svolte, con un ritorno di queste informazioni sulla sede principale chiaramente immediata. Certo. Che consente migliore programmazione, migliore pianificazione degli interventi, così via. Uno degli esempi di questo tipo che posso riportare, che abbiamo visto funzionare molto bene, è con l'attività di Lazio Service, che è la società per il controllo della qualità dei servizi sui treni regionali appunto del Lazio. I manutentori a bordo treno si sono dotati l'anno scorso di strumenti che hanno consentito appunto l'automazione del lavoro con benefici nella programmazione e nella qualità. Un'altra area molto importante è l'assistenza domiciliare per interventi di assistenza medica che può essere svolta tramite strumenti di, anche qua, rapporto sull'intervento fatto, commenti, richiesta di successivi interventi e così via. Un ultimo esempio, ma sempre più importante, è quello della raccolta e verifica di informazioni sul territorio con monitoraggio del territorio. Quante volte gli addetti al controllo dei servizi pubblici o del bene pubblico, quindi delle infrastrutture pubbliche, hanno la necessità di segnalare problemi, rischi, buchi, banalmente sulla pavimentazione. Anche qua il controllo, la verifica e la segnalazione dei problemi per la richiesta di intervento può essere fatta oggi con strumenti, con tempi e con qualità molto più avanzata e con impatto immediato sulle azioni. Senta, però immagino che per utilizzare un servizio di questo genere ci sia già come dei pacchetti pronti, insomma, che si possono, come dire, acquistare, noleggiare, non ho idea, insomma, si possono implementare tipicamente da parte di un'amministrazione. Ma per entrare in contatto, insomma, con chi, voi siete uno di questi fornitori, che cosa si fa? Si va a un sito e si dice che si ha intenzione di utilizzare un servizio di Workforce Automation, insomma. Sì, ma in realtà non è un prodotto, un servizio che trovi a scaffale come... va un po' costruito. Mercato, no, chiaramente, va costruito. Quindi entrare in contatto con l'azienda, si usano i canali, diciamo, standard, quindi sì, certamente anche online c'è la possibilità di richiedere un contatto, ma noi lavoriamo così, ma in realtà si lavora così in generale su questi temi. È necessario fare con l'azienda, pubblico o privata che sia, che offre il servizio, un percorso di approfondimento di quali sono le attività, certo, che possono essere indirizzate, quindi cosa viene fatto oggi, tipicamente dove c'è maggiore mobilità del personale e dove si usa più carta, quindi dove si può avere un intervento più profondo, di maggiore efficienza e minori costi. Mm-hmm. Poi si passa a quel punto a una definizione insieme all'azienda di quali sono i requisiti che questa soluzione deve mantenere, quindi quali informazioni, quale tipo di reattività, quali domande, e poi si passa a una fase di identificazione della soluzione. Okay. In qualche caso le soluzioni sono, diciamo, pronte all'uso, perché i requisiti sono generici e non c'è necessità di integrare con i sistemi informativi dell'azienda. Dove invece l'azienda abbia un'esigenza più peculiare, più specifica e voglia integrare con i sistemi informatici, database dell'azienda, allora è necessario partire con un progetto di sviluppo personalizzato. Ci vuole anche, insomma, un'analisi dell'applicazione per capire qual è la soluzione migliore. Sabrina Baggioni, grazie e buon lavoro. Grazie. Torniamo in studio, ma solo per salutarci e ricordarvi che di tutto questo si parlerà a Smau Bar il 6 e 7 febbraio, che potete scrivere a smartcity@radio24.it, mi potete contattare anche su Facebook, mi trovate col mio nome, Maurizio Melis, buona serata.